Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Matteo Comes in regia. Mentre sul mercato non succede un bel niente, ve lo assicuro, al di là di tante chiacchiere, al di là di Destro che faticosamente si avvicina verso la Roma, incontro decisivo previsto alle 15 per vedere se si trova un accordo sul grano tra gli emissari del giocatore ormai quasi ex del Siena e quelli della Roma. Per quanto riguarda la Juventus si parla sempre dello scambio Pazzini-Quagliarella. E per il Milan, dopo che Mourinho ha praticamente licenziato Kakà, ragazzo mio cercati un'altra squadra, per il Milan si continua a parlare di Kakà a prezzo di saldo e magari una parte di ingaggio versata da, se non da Mourinho, dalle merengue, spunta il nome di Robben. Sono tutte chiacchiere, lasciamole bollire lì, se volete ne parliamo, 800 24 00 24 tutti i giorni, è sempre un piacere e un divertimento parlare di calcio mercato aria fritta, se preferite, ma io mi diverto sul serio. Allora, mentre capita tutto questo e se succede qualcosa giuro che ve lo dico, ho per le mani un libro che potrebbe essere forse uno degli ultimi del suo genere, se passerà la linea, come mi auguro, la linea Blatter. Anche di questo, se volete, parliamo. 800 24 00 24. A 3 mesi dallo scontro diretto, Adriano Galliani mostra ancora ai giornalisti il display del suo cellulare su cui campeggia il gol di Montari. Ho sempre questa immagine con me per non dimenticare quello che è successo. Fa bene, scrive l'autore sulla controcopertina, perché il rischio di dimenticarselo è alto. Non ne parla mai nessuno. Il libro si intitola Il gol di Montari, storia dello scudetto più bello di sempre. Ma c'è solo un episodio che ha condizionato il campionato. Parlo solo che il gol di Montari è decisivo per il campionato. Poi se la Juventus arriverà 6 punti avanti non sarà decisivo. A qualcuno magari non piace che gli dica così, ma la verità è un dato di fatto. Poi forse la partita dal 2-0 finiva 3-2 per la Juventus, però insomma. Stasera magari non so come sarebbe andata a finire, però sicuramente l'annullamento del gol è stato clamoroso. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrarle ghiappe ghiare con i pesci in mezzo all'onne, noi s'andiamo a divertire. Cross di Emanuelson, chi lo mette fuori, Maxence Buffon e poi Sulle! Montari, ma non è gol, è annullato il gol, fuori gioco di Montari dopo la straordinaria parata di Buffon, forse poi rivedremo, a colpo di testa di Maxence e Buffon fa un miracolo, poi nettamente non può essere in fuori gioco perché c'è un uomo dietro la linea. No. Beh, io non, questo libro non l'ho letto, chissà se lo farò nell'estate. Gol di Montari, storia dello scudetto più bello di sempre, scritto da un avvocato con la passione per i fantasmi, non quelli che abitano nei castelli ma quelli che vivono negli stadi. Massimo Zampini, avvocato, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno, ciao. Noto, ciao, anche, buongiorno. Noto anche Massimo Zampini sul web con il nickname di un altro libro che ha scritto, Ergo de Turone. Hai la fissa dei gol fantasma. Esattamente, il divertimento delle infinite vittorie juventine è questo, che poi dietro ogni vittoria, anche quelle di 32 anni fa, di 30 anni fa come quella di Turone, c'è sempre, si trova sempre la macchia, e quindi questo le rende un po' più magiche per noi. Sì, di macchie ce ne sono poi delle altre, ma ne lasciamo stare. Io non sono tifoso juventino, te lo dico subito. No, dicevo che questo libro potrebbe essere un ultimo della serie, se passa la linea Blatter, come peraltro io mi auguro, non so tu. Sì, no, me lo auguro anch'io. Ma a dir la verità una soluzione si trova sempre. Io cominciavo con Turone, appunto perché Turone non era un gol non gol, bensì era un mezzo fuorigioco che 30 anni dopo ancora viene ricordato come se fosse sintomatico dei più grandi complotti del mondo. Quindi se non ci saranno più gol non gol ci sarà altro, non c'è problema. Io il libro, infatti, il secondo capitolo è... Cos'hai scritto in questo libro? Andiamo subito. Ma in questo libro racconto lo scudetto, hai detto bene, il sottotitolo è storia dello scudetto più bello di sempre, più bello per tanti motivi, perché dal 2006 intanto quello che è successo e non pensavamo di tornare così presto a vincere, e poi raccontate con un po' di ironia anche un po' le vicissitudini di quest'anno è un libro praticamente scritto da solo, perché cominciamo con lo stadio che deve crollare, perché quando la Juve torna a vincere qualche partita qualche problema ci deve essere, allora c'è lo stadio che crolla, poi ci sono dei rinvii per troppo sole a Napoli, poi ci sono, c'è un insieme di cose, di catena di eventi che poi trova il suo top nel gol di Montari, che diventa la scusa, l'alibi eterno degli anti-juventini. Senti, dicevi anche tu sei della linea Blatter come, sì, come, sì. Come sottoscritto, ma è difficile non esserlo. Guarda, io, a me molto raramente è capitato di stare dalla parte del principe svizzero, però in questo caso, vabbè, anche i recenti europei hanno dimostrato come non se ne può fare a meno. Attenzione, non stiamo parlando di Movione in campo, che io non vorrei mai vedere. Tu, Massimo? No, non c'è dubbio, è una cosa completamente diversa. La Moviola in campo sarebbe un inferno anche per giudicare da rigore o meno un intervento. Il gol, non gol, è gol e basta. Sì. È anche vero che poi, anche là, io dico, è un discorso di cultura sportiva, perché quando è capitato in Inghilterra-Ucraina non credo che in Ucraina stiano parlando di questo da 3 mesi, insomma. Quindi rimane anche un discorso di cultura sportiva, però hai perfettamente ragione, sarebbe auspicabile che non ci fosse. Però in Inghilterra ancora qualcuno di Lampard parla, insomma. Sì, qualcosa capita, però insomma non nello stesso modo che capita da noi, dove diventa l'emblema di un campionato che dura 40 partite con errori da una parte e dall'altra, e una squadra con 10 rigori, un'altra con 3 e tutto il resto, insomma. Sì. Ti chiedo ancora una cosa, poi sentiamo il traffico, poi ne avrei delle altre di curiosità da togliermi. Ma come si colloca un calciofilo come te con il problema Olimpiadi? Le segui? L'Olimpiadi è tutto meno che calcio, se chiama lo sport, poi insomma, ma l'atletica, il nuoto, almeno ogni 4 anni ami vedere quel tipo di competizione, e il calcio diventa davvero una cosa in secondo piano, una cosa che passa in secondo piano, e va benissimo, perché almeno l'estate poi ogni 4 anni non è male dedicarci ad altro, quindi lo vivo molto bene, sinceramente. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi parliamo un po' di Juventus. C'è chi mi scrive: Pazzini per Quagliarella, ma Conte e Marotta sono pazzi? Sono d'accordo. In che senso? Cioè, sono d'accordo che se lo fanno non trovano proprio il mio accordo. Quagliarella vale sicuramente più di Pazzini, a mio parere. Anche nel gioco della Juventus? Sì, anche nel gioco della Juve, perché Quagliarella può fare il primo attaccante, il secondo attaccante, è più eclettico, aiuta anche la squadra, tira da fuori uno di quelli della Juve. Alla Juve è mancato proprio uno che facesse tanti gol, e Quagliarella è stato abbastanza per molto tempo infortunato, in attesa di riprendersi. E il miglior Quagliarella che abbiamo visto nella prima mezza stagione con la Juve del Neri, che non era la più forte, aveva fatto 10 gol. Un insulto come questo non mi era mai successo. Carciofo, mi dice un ascoltatore, bellissimo, lo ringrazio. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Avvocato Massimo Zampini, che hai scritto Ergo de Turone e il gol di Montari, storia dello scudetto più bello di sempre, quindi tu mi dici che ti farebbe schifo un attacco Pazzini, prima punta, Jovetic, Vucinic. Beh, schifo no, però ecco, se l'anno scorso è mancato il cosiddetto top player, ormai questo termine... Tanto Van Persie non viene, secondo me. Van Persie, penso anch'io che la Juve non spenda 30-35 milioni più 7-8 di ingaggio, non lo so. Però meglio di Pazzini credo che qualcosa si possa trovare, a questo punto rischiando un po' di più, prendendo qualcuno all'estero. Però ecco, Pazzini sappiamo quello che può dare, è la riserva di Milito all'Inter. Va benissimo come riserva di un nostro centravanti titolare, non va bene se diventa lui il centravanti della Juventus. Ma insomma, sono relativamente d'accordo con te. A me Pazzini è un giocatore che piace ed è una prima punta che davanti a quei due potrebbe fare un discreto numero di gol, anche perché, come sappiamo, molto bravo di testa, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me potrebbe essere un giocatore funzionale a quel tipo di piano e di progetto. Van Persie, nonostante oggi i bookmakers lo diano vicino alla Juve, ma si divertono anche loro con questo giochino, secondo me alla Juventus non va, ma più che altro per questioni di ingaggio, perché andrebbe a... Questi giocatori vanno a spostare degli equilibri interni in maniera molto consistente, ed è per questo che io sono molto perplesso sull'arrivo di Van Persie, così come su un rinnovo alle cifre di cui si dice per Cavani, insomma. No, io la penso come te, nel senso non sono mai d'accordo, e quello che mi è piaciuto nella storia della Juventus quando sono nato è stata che raramente ha speso centinaia di milioni per arrivare anche a un grandissimo campione. Meglio prendere Zidane a 2 milioni e venderlo poi a 100 a Real Madrid. Io preferisco quel tipo di campagna acquisti. È anche vero che se tu vuoi fare, dopo un anno strepitoso fatto senza una sconfitta, giocando sempre bene, è mancato qualcuno che facesse un po' di più di un gol ogni 10 occasioni, come capitava alla Juve l'anno scorso, forse, ecco, non so se un Pazzini o anche un Matri, un Quagliarella sono sufficienti per fare davvero il salto di qualità. Questa è la domanda che rimane. Comunque, leggevo anche oggi abbonamenti esauriti, poi leggo le interviste e sento le interviste di Marchisio che parla di Champions. Non è che vi state allargando un po' troppo? No, io spero che parlino poco, a dire la verità, perché quello che ha riportato Conte e la nuova dirigenza, secondo me, con Agnelli, con Andrea Agnelli e compagnia, ha riportato quello che io intendo per lo stile Juventus, che vuol dire parlare poco prima di aver vinto e magari anche dopo, senza magliette stupide e cose del genere per dileggiare gli avversari, come è capitato. Sulla storia delle stelle come sei messo? Sulla storia delle stelle sono ammesso che va benissimo 0 o andava benissimo 3, sicuramente non 2 come volevano come volevano gli organi di regime e la stampa in generale, insomma, perché 2 assolutamente no. Le vittorie sul campo sono 30, quindi se non ce ne fanno mettere 3 va benissimo 0. Si poteva fare anche senza la scritta 30 sul campo, tanto lo sappiamo tutti quanti sono. Torno al discorso di prima, che vuoi sentire poche chiacchiere, non è che vi state allargando un po' troppo? Secondo me sì, perché parlare di Juventus competitiva per la Champions, secondo me è troppo al momento. Ma là bisogna vedere anche la domanda, perché Marchisio non mi sembra il tipo che poi va a sparare in conferenza stampa cose del genere. Magari gli chiedono l'ambizione, quella di lottare. Sì, ti piacerebbe vincere la Champions League? Beh sì, mi piacerebbe. Esattamente, quindi cerchiamo, proviamoci, però insomma spero che non facciano proclami, che non siano montati da testa, sennò finisce male. Sì, un'ultima cosa, un'ultima domanda te la faccio proprio da avvocato, quale sei, sì, non da autore di libri, da tifoso juventino. Sono in arrivo i deferimenti, come vedi questa storia? C'è in mezzo anche Conte, che... Sì, sì, c'è mezzo di Conte, lo sappiamo, anzi solo Conte, da quello che si legge sui giornali da 2-3 mesi, non credo che ci siano altri coinvolti, perché sì, si parla esclusivamente di Conte, e io leggo i pronostici fatti sui vari giornali, Gazzetta e compagnia, di solito ci prendono, quindi dicono che sarà deferito, e loro qualche rapporto con Procura Federale e altre procure ce l'hanno, quindi in linea di massima direi di fidarci di loro, e li vedo molto neri nei pronostici, quindi tendo ad allinearmi a loro. Io spero che, da quello che ho letto, non mi sembrano prove così roboanti, quelle di, e lo dico da avvocato, quelle di un Carobbio che dice un giorno nella riunione tecnica ci ha detto, oppure quello che forse sembrava che, ma a quanto pare per questi giornali è più che sufficiente, quindi sarà così sicuramente. Sì, no, ma sai cosa mi sorprenderebbe in maniera totale? Cioè, se veramente c'è un allenatore che va alla riunione tecnica, e poi la chiudo qui con questa storia, se veramente un allenatore va alla riunione tecnica e dice guardate questa partita è zottata, quindi andiamo così così, vuol dire che è una cosa, è un'usanza comune, e questo se lo fa Conte con quelli del Siena, vuol dire che lo fanno anche gli altri, vuol dire che tutto il castello è da buttare giù con il tritolo, quindi mi sembra una storia abbastanza bizzarra, poi magari andare così. Io la penso esattamente come te, proprio questa cosa che hai detto l'ha trovato del tutto, vuol dire, se fosse capitato, io fatico a crederci conoscendo un pochettino Conte, se fosse capitato vuol dire... No, che ma io allenatore mi sputtano anche con l'ultimo dei ragazzini, allora vuol dire che così fanno tutti, vuol dire che è la norma per tutti quanti, o Conte è pazzo o fanno così tutti. Esattamente, anche se so che tanti non la pensano così, anche nel 2006 poi si è scoperto che tante cose le facevano tutti, eppure chi va punito è sempre lo stesso, per dare esempio. Vabbè. Non sei d'accordo? No, lasciamo stare 2006, lasciamo stare 2006, perché sennò facciamo mattina. Grazie Massimo, grazie. Grazie mille a voi, grazie a voi. Grazie avvocato Massimo Zampini. Dunque, se ne avete voglia, se siete tifosi juventini, il gol di Muntari, storia dello scudetto più bello di sempre. Roberto Rimini, Aldo Siena, buongiorno. Roberto, dica. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sarei molto contento dello scambio di Quagliarella, perché a me piace molto... tifoso dell'Inter, e sarebbe molto utile al gioco che fa Stramaccioni, piace molto come giocatore, e penso che l'Inter stia facendo, a mio parere, un buon mercato, non esaltante a livello di nomi, ma secondo me non è malvagio, insomma, la politica che sta attuando sta svecchiando come era ovvio che dovesse fare, e sta soprattutto cercando di fare una bella dieta di bilancio, perché è chiaro che sono in uscita giocatori che pesano molto e i cui contratti sono stati inchiostrati tempo fa, quando magari c'erano meno preoccupazioni di denaro. Dica Roberto. Sì, no, chiaro, no, poi ci voleva un po' di ringiovanimento, perché insomma, a parte Zanetti, gli altri mi sembravano un po' con il filo del gas, sì, un po' corto. Sì. E poi niente, un'altra cosa ne pensa del mercato di Siena, del basket, cambia discorso? Ma che Siena è come l'Inter, deve rifare la squadra, a partire da un allenatore nuovo e da una squadra che è arrivata, è riuscita a prolungare di un anno il suo ciclo, e già questa non era una cosa da... da poco, ma complici anche le mancanze degli altri, è riuscita a prolungare di almeno un anno il suo ciclo, e io credo che ci vorrà un po' di assestamento, cioè l'anno prossimo per la prima volta, se le cose vanno così, Siena probabilmente non partirà favorita o strafavorita per lo scudetto. Quindi mercato di Siena è all'insegna della ricostruzione, di una necessaria ristrutturazione. Poi sono dell'idea che magari un paio di uomini che conoscono la via e conoscono soprattutto la filosofia societaria nello spogliatoio servano ancora. Aldo, proprio da Siena, non so se vuole parlare anche lui di Montepaschi o di qualcos'altro. Dica, Aldo, buongiorno. Buonasera. Salve. Buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie. No, niente basket. Volevo parlare calcio e mi sarebbe piaciuto parlare con quel signore con cui lei parlava prima. Sì. Dunque, io fossi stato lui, il libro l'avevo scritto non da Turone a Montari, ma da Turone a Antonioni e Graziani, a Ronaldo e Zanetti, a Montari. Questi sono tutti gli scudetti che la Juve ha rubato. È inutile girarci intorno, perché la Juve, lui dice, sono 30. E quindi lascia stare, cioè lei conta proprio quelli sul campo, lascia stare quegli altri, insomma. Quelli sul campo, mi scusi. Lui non vuole la moviola in campo, perché sì. Se no il rigore a Catanzaro dato a Bredi avrebbero visto che non c'era. Il gol di Montari era gol e quindi due scudetti sarebbero stati tolti. Il rigore su Ronaldo era rigore, il gol di Turone era gol e quindi quattro scudetti meno. Cioè, sì. Ma di che si parla? Ma diciamo la verità. Loro hanno 28 scudetti all'ordo, a netto saranno 16 o 17. Ma per favore. Il tifo è bello perché è vario, Aldo, e nell'animo del tifoso si trovano tutte queste cose, compresi ricordi lontanissimi. Sì, questi sono pensieri di tutti gli anti-juventini del mondo, non c'è discussione. La ringrazio, molto simpatico. 800 24 00 24, numero verde. Dunque cominciamo a innestare il prossimo discorso, sempre al netto di tutte le vostre opinioni che valgono per qualunque argomento, come sempre in questo happening sportivo del pomeriggio. 800 24 00 24, però cominciamo a parlare un po' di Olimpiadi, perché vi stiamo insomma facendo lezione, no? Tutto quello che avreste voluto sapere sulle Olimpiadi e magari non osate chiedere, ebbene, varie ed eventuali. Dichiaro aperti i primi giochi aziendali. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Alla squadra prima classificata non saranno concessi né premi, né inni, né onori, né coppe. È inutile che storciate il naso. Nel vostro piccolo, specialmente da piccoli e magari in spiaggia, siete stati dei giocatori dilettanti di badminton. Avete presente quella volta in cui al posto dei soliti racchettoni avete speso 10 euro per il volano? Ecco, in quel preciso momento siete entrati nel fantastico mondo del badminton. Uno sport che più semplice non si può. Come il tennis, c'è un campo rettangolare, una rete e delle racchette. E per fare punto bisogna far cadere il volano, fatto di sughero e piume, all'interno dell'area avversaria, giocando sempre al volo. Il rimbalzo, infatti, non è fisicamente contemplato. La partita, al meglio dei tre set, finisce quando un giocatore arriva per primo a 21 punti. Sul 20 pari il gioco continua fino a che uno non ottiene un vantaggio di 2 punti, mentre sul 29 pari il primo che fa punto vince l'incontro. Ma non pensiate sia uno sport da bagnasciuga. Chi intende fischiettare a una bella ragazza tra un colpo e l'altro, si trovi un passatempo diverso. Occorrono tecniche e tattiche sopraffine per respingere servizi sparati fino a 260 km orari. I partecipanti della squadra ultima classificata saranno tutti trasferiti nella nostra miniera di sasso stritto, frazione di Carbonia. E qui impiegati come muli da soma. Dunque oggi vi abbiamo spiegato i segreti del badminton. Sulla mano chi li conosceva già, dopo aver scoperto l'altro giorno che nella lotta sono vietati barbe e baffi. Allora, ci sono i bookmakers che battono già le quote relative agli ori dell'Italia. Per la SNAI l'Italia può vincere 7 medaglie d'oro, evento quotato a 3,50, mentre per 8 medaglie d'oro la quota è 6, per 6 ori la quota è 5, per 9 ori la quota è 7,50. Attenzione, perché l'Italia, ne parleremo subito dopo la borsa, l'Italia deve partire subito forte. Cerimonia d'apertura, poi colpo di sparo, perché abbiamo tante facce da medaglia da giocarci nei primissimi giorni di Olimpiade. Io sapevo benissimo che abbiamo ascoltatori molto acculturati dal punto di vista sportivo, perché ce n'è uno che scrive: io a badminton ci giocavo in Inghilterra contro i malesiani, bellissimo, scrive un ascoltatore che purtroppo non si firma. A proposito di Olimpiadi, ci sono ovviamente ogni giorno varie notizie come questa, che è importante non solo dal punto di vista sportivo. L'Olimpiade è la festa dei popoli della pace, quindi noi del Comitato Olimpico della Libia siamo assolutamente favorevoli all'idea di fare un minuto di silenzio durante l'apertura per ricordare le vittime israeliane di Monaco 72. L'appello dal villaggio atleti arriva da Milada Agila, team leader della rappresentativa libica, dunque minuto di silenzio cui la Libia aderirà. Poi ci sono notizie più glamour come quella di Phelps con il nuovo look, pizzetto scolpito, chiari scuri e cappuccio in testa per Michael Phelps, che sbarca così a Londra con una missione da compiere. Invece saluto e ringrazio Roberto Perrone, firma prestigiosa del Corriere della Sera, inviato a Londra. Ciao Roberto, grazie. Ciao a tutti, buongiorno. Dicevo che subito dopo la cerimonia d'apertura per l'Italia c'è una sorta di colpo di sparo. Prima leggevo le quote dei bookies sulle nostre medaglie d'oro, si parla di 7. Ci giochiamo moltissimo nei primi giorni di questa Olimpiade, Roberto. Direi come sempre, però vorrei ricordare i bookies che nell'ultima Olimpiade siamo partiti sparati praticamente con una medaglia d'oro al giorno e poi ci siamo fermati, quindi tutti questi discorsi lasciano un po' il tempo che trovano. Io credo comunque più che un discorso generale sia da fare un discorso particolare sport per sport, per esempio il nuoto ha domenica un big day con la Pellegrini e Scozzoli. Ecco, io credo che se quel giorno lì cominciamo bene, i nuotatori magari potranno vivere una settimana di grande spolvero. Sì. Ecco, quindi direi più che un discorso generale lo farei sport per sport. Ecco. Sì. La domanda te la faccio così en passant, visto che hai parlato della Pellegrini e nulla c'entra con i discorsi che stiamo facendo, se non marginalmente. Caressa e le telecronache del nuoto, tu come le vedi? Io non le vedrò perché sono non qui. Non le vedrai perché le vedrai da lì, ma le vedresti a casa? Beh, se fossi qui sarei curioso di sentire... ho letto queste cose che... Queste polemiche un po' di retroguardia, secondo me. Ah, sì, poi soprattutto il fatto che ho letto anche le sue dichiarazioni, che è andato a studiarsi anche noi, che si è visto anche i trials russi, ecco. Direi che da tutte le parti c'è un po', da una parte e dall'altra c'è un po' di esagerazione. Cioè, io sono un vecchio libertario, non è che difendo gli orticelli, non mi sento ancora un vecchio trombone, quindi cioè, se c'è qualcuno che si fa avanti con buone idee, riesce a fare delle buone cose, è sempre ben accetto. Le persone vanno giudicate sul campo, da questo punto di vista io appunto non mi piacciono le polemiche, questi qua, dove vengono, chi sono, noi siamo qui da tanti anni con l'esperienza, cioè, queste cose non mi piacciono. C'è una nuova realtà e va bene. Dall'altra parte però non mi piace neanche quello che dice... Mi sono visti i trials russi, coreani, cioè no. No, cioè, io direi guardiamo, sentiamo e poi valutiamo in esatto, tutta serenità. Cioè, no? Appunto, voglio dire, poi ci sarà il nostro Bottura che come ha sistemato quelli della Rai, gli europei, sistemerà loro alle Olimpiadi, insomma, sicuramente con la par condicio, insomma, quindi voglio dire, andiamo avanti, ecco, cioè non c'è problema. Io spero che facciano un buon prodotto, soprattutto per gli italiani, per quelli che vedranno le Olimpiadi, perché anche l'Olimpiade, perché sennò il mio collega Monti mi cazzia. Sì. E quindi spero che possano avvicinare la gente anche a queste Olimpiadi, a questi giochi, sì, e non solo insomma a Ibrahimovic, chi piglia il Milan, cioè ecco, queste cose veramente tristi in questo periodo. Ecco, io in questo periodo più che le guerre abolirei il calcio, cioè a differenza Beh, facciamo tutte e due, nel periodo olimpico 3 settimane abolito completamente, non si parla, non si dice, non si fa nulla che riguarda il calcio, cancellato proprio, ecco. E per i tossici da calciomercato come la mettiamo? Tutti al CERT? Peggio per loro, cioè gireranno sbandati nelle piazze, capisci? Trascineranno nelle piazze trascicando i piedi, non lo so, non veramente. Senti, invece... spero che la gente segua i piedi, è una cosa che capita ogni 4 anni, è una cosa molto bella, è una cosa ricca, si incontrano storie particolari, insomma, il nostro paese soprattutto che vive di una mediocre cultura sportiva ha bisogno, secondo me, almeno in questo periodo di farsi un bagno in questo tipo di discipline, gente che come quelli che ho citato io oggi. Esatto, io volevo parlare di questa storia, perché tra l'altro, curiosamente, prima abbiamo proposto le regole del badminton, che non è sport notissimo dalle nostre parti, e tu oggi parli di figli unici alle Olimpiadi, cioè di un solo italiano che partecipa ad alcune discipline. Una di queste, appunto nel badminton, è Agnese Allegrini. Esattamente, una ragazza tanto molto simpatica, diciamo molto, molto sincera, mi ha raccontato la sua avventura, perché lei due erano già a Pechino, mentre il terzo è un esordiente scarantino, il giovane sollevatore di peso, sì, è un esordiente assoluto. Lei appunto mi ha raccontato questa avventura a Pechino quando era da sola, i primi tempi, sai come spesso succede quando cambi classe, no? Vai in una nuova classe e ti trovi nel banco che nessuno ti considera, gli altri si conoscono tutti, vanno a mangiare insieme eccetera, tu mangi da sola, ecco, queste esperienze. Poi lei naturalmente è una tipa molto spontanea, molto brillante, insomma, e quindi si è fatta tante amicizie e quindi ha un po' ovviato la solitudine, però sicuramente essere l'unico rappresentante di uno sport all'Olimpiade fa un po' sensazione, insomma. Sì, poi per noi italiani abituati ad essere un po' come il prezzemolo, alle Olimpiadi spunta il prezzemolo italiano qua e là, allora ci scopriamo fortissimi nella lotta greco-romana piuttosto che sai, come dicevi tu, il badminton è una disciplina che ha milioni di praticanti, cioè per esempio noi siamo fortissimi come sai, noi abbiamo una tradizione. E anche l'Olimpiade è una grande tradizione nella pallanuoto, ma cioè i praticanti del badminton nel mondo sono 1000 volte di più, 2000, credo forse anche 10.000 volte di più quelli della pallanuoto, che pure è disciplina prestigiosissima, insomma. Sicuro. È uno sport molto diffuso, per esempio in tutto il sud-est asiatico, come tutto l'Oriente, insomma, a milioni di praticanti, insomma, in Italia sono un migliaio circa, la nazionale è formata da 4 persone, 3 uomini e Agnese, ma i 3 uomini non si sono qualificati, insomma. Quindi c'è solo Agnese, comincerà tra l'altro credo con una coreana, mi sembra che il sorteggio sia, tra l'altro appunto lei ha raccontato che siccome c'è la gara il giorno dopo l'inaugurazione, sì, la cerimonia inaugurale, a Pechino, come farà la Pellegrini, famosa polemica, non posso fare la portabandiera perché c'ho la gara il giorno dopo, eccetera. E quindi invece lei a Pechino c'è la gara il giorno dopo e non è andata alla cerimonia inaugurale. Sì. Invece questa volta detto che se ne frega ci va. Insomma, se ne frega, giustamente, perché è una cosa che, insomma, non so quante Olimpiadi... Quanto Olimpiadi possa fare un atleta come Agnese Allegrini, mi auguro 1000, però insomma essere lì quel giorno, quella notte, deve essere una cosa indimenticabile. Io faccio giornalista, ma tra le poche cose di sport che mi piacerebbe fare è fare la sfilata all'Olimpiade, cioè quindi alla cerimonia inaugurale, cioè tutto il resto mi sta bene, insomma, quello che faccio, però quello, ecco, c'ho un po' di invidia per quello, cioè sono... così un po', quello mi emoziona ancora adesso alla mia nona Olimpiade, capisci? Quindi no, capisco perfettamente. È un bel momento, insomma. Capisco perfettamente che non ne ho viste 9, molte di meno, ma è qualcosa che ti resta dentro, è una fotografia che ti porti dentro. Un'ultima cosa, Roby, che aria c'è a Londra? Perché io ne leggo di tutti i colori, da casini in metropolitana, telefoni, ascensori, taxisti in rivolta. Guarda, mi sembra una città un po' in subbuglio. Ma guarda, secondo me ci sarà un grosso problema di trasporti. Sì. Per esempio, per la prima volta al Parco Olimpico, che come sai è il più importante agglomerato di eventi sportivi, perché c'è il Parco Olimpico che praticamente contiene i due sport principali, cioè l'atletica, lo stadio dell'atletica, il stadio olimpico e le piscine, più qui c'è il basket, il velodromo, il BMX, credo l'hockey, il famoso hockey Prato, ecco, un altro sport dove a noi è oscuro. E quindi, e poi c'è il centro stampa e il centro televisivo. Ecco, è la prima volta che in questo posto o prendi i mezzi, o se no non puoi dire mi porti al Parco Olimpico un taxi. Praticamente non ci arriva, cioè, perché è bloccato. Non si sa dove te può. Qualsiasi posto ti lasci, comunque poi devi prendere un altro bus, devi andare a piedi, cioè. E quindi praticamente c'è questo treno veloce che ti porta in 7 minuti, e però io adesso lo voglio vedere questo treno veloce quando ci saranno le gare, perché finora siamo noi sporchi giornalisti di razza dannata che lo prendiamo, ma il giorno delle gare ci saranno tutti quelli che vanno a vedere le gare, presumo. Chiaro. Cioè è una cosa un po' da vedere, insomma. E poi nella città della metropolitana vedere i cartelli, come tu sai, metropolitana, cioè quando pensi alla metropolitana pensi a Londra, eccetera. E vedere i cartelli dice non usate la metropolitana, andate a piedi, tiene un po' di cose, che non è per la sicurezza, ma è per la congestione. Anche, cioè, se per la sicurezza, anche se per la sicurezza, Roberto, io oggi leggo, c'è un'agenzia preoccupante che avrai visto anche tu, cioè preoccupante, insomma, sono cose che... Sono eventi che vanno monitorati con grande attenzione, però l'agenzia del 14.03, il livello di minaccia terrorismo alle Olimpiadi di Londra è attualmente sostanziale, un gradino sotto il massimo, che è severo, ha detto il responsabile della sicurezza dei giochi, Chris Ellison, guarda, vicecomandante della Polizia Metropolitana. Guarda, io sono qui che faccio scongiuri che non posso dire quali sono, naturalmente, però da quando seguo le Olimpiadi c'è continuamente, tutte le Olimpiadi deve succedere dramma, spero che non succeda qua, però ti ripeto, sono arrivata alla nona e come dire, se deve succedere succede, però fortunatamente, a parte Atlanta, che ancora adesso non si capisce bene chi sia stato, cosa sia stato, eccetera, non è mai successo niente all'Olimpiade. Ecco, mi auguro che anche questa volta non succeda niente. Il pezzo, l'agenzia, il pezzo sull'articolo sul pericolo, c'è sempre. C'è sempre, fa sempre, parte, perché viviamo in questo mondo. Io mi auguro che appunto sia giustamente la routine di pezzi olimpici che bisogna fare, che e vanno poi scritti. Speriamo che finiscano qui, insomma. Intanto io tengo monitorata per voi la situazione calciomercato. Si continua a parlare di Jovetic e Van Persie per la Juventus, e non è una novità, mentre è reale questa trattativa tra l'Inter e la Juventus per questo possibile scambio tra Pazzini e Quagliarella. Un ascoltatore prima mi domandava invece, molto, molto civilmente in quel caso, via SMS, del mercato del Bologna, ufficiale Guarente. Lazio e Genoa lavorano ad uno scambio tra Mesto e Sculli. Il Milan continua a pensare a Puyangam Biwa. Il Parma ha rose in pugno. Il Chievo ha annunciato l'acquisto di Marco Rigoni dal Novara, che mi sembra una gran bella idea. Giorgio da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, volevo rispondere al spettatore là di Siena che parlava della Juve, 17 campionati dei 20. Sì. Volevo dirgli che io mi ricordo l'anno del Perugia, che la Juve gli ha fatto perdere il campionato. Poi mi ricordo, per festeggiare i 100 anni di Mussolini, che li ha fatti vincere a Roma. Mi ricordo l'anno del Torino, che ha fatto perdere i 5 punti che aveva di vantaggio. Niente, volevo dirgli solo che siamo tornati e ricominciamo a vincere come una volta. Benissimo. E poi volevo... Prego, io guardi, il botte e risposta lo lascio tutto a voi, però insomma facciamo così, questa è l'ultima, mi auguro, così andiamo sul pari e patta, no? Nei conti addirittura siamo arrivati allo scudetto della Roma voluto da Mussolini, nella storia di questi scudetti dati e vinti e perduti. Giorgio, grazie. Achille, Milano. Achille? Sì, buongiorno. Pronto? Sì, la sento bene. Buongiorno Sorgenta, ho già il piacere per la seconda volta di parlare con lei. Io sono intervista e solamente questo, sappiamo parlare sempre da lei in relazione a questo. Saras è 5 anni che perde dei gran soldi perché comunque il petrolio, chi lo produce è imparato a raffinarlo è in loco, di conseguenza chi ha in mano il portafoglio non ha più i soldi per ripianare i debiti del fratello Massimo Moratti, e l'Inter in realtà, infatti, come lei mi aveva detto quando io le chiesi ma l'Inter perché non cominciò un ciclo dopo la finale col Bayern di Monaco, e lei mi disse è finita quella sera il ciclo. Ma io resto convinto di poche cose come di quella, nel senso che quell'Inter è finita lì, poi per ragioni di riconoscenza è stata prolungata lo spirito di quella squadra, ma è anche voglio dire comprensibile, io credo, no Achille? È comprensibile quello, perché è comprensibile una certa riconoscenza nei confronti di chi ti ha portato lì dopo tanti anni. Forse sono meno comprensibili certi contratti che molto lunghi e molto onerosi che lì sono stati siglati, ma quell'Inter è finita lì con Mourinho che va via con l'auto del Real Madrid e con quella festa strana all'alba a San Siro. Sì. Grande riconoscenza infatti a quello che ha fatto il presidente, e la realtà è che appena si possono eliminare i giocatori che hanno contratti onerosi, lì si vendono e non li sostituiscono con qualche cosa di equivalente. Sì, beh, si vendono, sono ancora da venderli, quanto a sostituirli con qualcosa di equivalente, lo diceva lei prima, l'Inter comunque sta pensando ad una robusta dieta, non solo in termini anagrafici, ma anche in termini di bilancio, e quindi insomma... Si cercheranno di rifare una squadra magari pronta per vincere, non dall'anno prossimo. Tanto c'è questo derby con il Manchester United su Lucas che io fatico anche a comprendere, perché lì si rischiano di spendere molti quattrini in quest'asta per un giocatore che ancora non sai se è in grado di spostare. Intanto oggi dovrebbe essere, tra le altre cose, il giorno in cui conosceremo il futuro di Pippo Inzaghi, e Braida dice che allenerà, quindi diventerà allenatore ed allenerà gli allievi nazionali del Milan al 100% in giornata, attese le parole di Inzaghi, vedremo se confermerà quanto Braida dice. 800 24 00 24, numero verde, Samuele da Verona. Ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno. Tornando agli aneddoti, gliene racconto uno veloce in dialetto, come vi faccio prima. Coppa Campioni del 85-86, sì, di quella annata lì, dove Verona aveva vinto lo scudetto, la Juve la va in Coppa Campioni per i fatti delle Isel. Primo turno, porte chiuse, la Juve c'è la partita a porte chiuse per quello che è successo con le Isel. Succede un casino, mani di Serena in area non dato, fallo su Marangon, ripartenza della Juve, gol. Rientra nei spogliatoi, fine partita, finita 2-0, Verona eliminato, non so chi comunque vi ha rotto, ma esce Elker dal campo mostrando a Wurf, l'arbitro, il segno dell'assegno. Cioè la firma dell'assegno, no? Quando dovete firmare sull'assegno per la partita. Si rompe una vetrina, arrivano carabinieri, Madonna e l'altra, Bagnoli risponde: se cerchi i ladri, bisogna che andi di là. Sì. Perciò, per far dire a un signore come Bagnoli una roba del genere, comunque questo... Questa è storia, quella che lei ricorda, è storia piuttosto nota. Sono episodi che io ma molti tifosi di calcio ricordano bene. Allacciandomi a questo, comunque, visto che meno male tutti bisogna dimagrire, e da lì si può ripartire, perché anche il Verona fece lo stesso sbaglio di tenere i Di Gennaro, i Tricella, i Elkier, riuscì a fare 2-3 anni per proprio declini, non puoi mantenere, il Verona pagavano 1 miliardo di lire al tempo, e non poteva un presidente di una così sinuosa aiutato da altri imprenditori. Però da questo secondo me può partire, cioè si dice il calcio si sta abbassando come livello, e da lì chi ha un buon progetto può partire, insomma. Sì, no, certamente. Non a caso l'Udinese ieri ha presentato qualcosa di importante, non in questo non giocatori stavolta, ma un progetto di ristrutturazione dello stadio Friuli, con concessione per 99 anni della sede, insomma, del territorio, e questi sono progetti importanti, e sono i progetti che stanno alla base di un modo un po' diverso di gestire il calcio rispetto a quello attuale. Riceviamo molti messaggi anche su Twitter e su Facebook, devo dire la verità. Ad esempio Domenico su Twitter scrive che l'Italia prenderà 10 ore minimo, ottimisti in tempo di crisi, bravo Domenico. Oppure c'è Marina da Milano che ha sentito parlare di badminton e si è evidentemente illuminato. 52 anni, da piccola con i miei cuginetti si giocava a badminton o a cricket la domenica nel giardino della zia Erminia, che ora avrebbe 99 anni. Grazie per aver risvegliato i bei ricordi. Si figuri Marina, un bacio. Roberto, Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono d'accordo con lei a proposito di Pazzini, a prescindere dal fatto che sono juventino. Io lo vedrei molto bene al posto di Quagliarella. Ma sa, Quagliarella è un tipo di giocatore completamente diverso. Roberto, però bisogna vedere qual è il disegno complessivo, perché sono giocatori molto differenti, quindi dire cambio Quagliarella con Pazzini. Quagliarella è un giocatore che ha caratteristiche molto particolari e molto differenti rispetto a Pazzini, quindi è un giocatore che attualmente, per come adesso, alla Juventus in teoria serve, però se stai pensando davvero di prendere Jovetic, allora ti serve di più una prima punta, se ha intenzione di lasciare andare Matri cedere Matri al Milan. Quello che dico io è che in un quadro complessivo, un attacco con Pazzini prima punta e alle sue spalle Jovetic e Vucinic, io non lo vedo affatto male. Anch'io confermo. Nell'attesa che recuperi anche Lucio, speriamo. Nell'attesa che recuperi anche Lucio, cosa ne pensa lei di Lucio? Ma nella partita che c'è stata al Trofeo Team, ma in valore assoluto, Roberto, via. Partito Trofeo Team del 22 di luglio, conta niente. Ma come giocatore? Come giocatore a me è sempre piaciuto, e sotto quel punto di vista io ho sempre inviato molto, molto volentieri, l'ho visto molto bene, tranne nell'ultimo anno che un po' tutto l'Inter è calata, però l'ho visto, a me piace, sinceramente a me piace. Spero che ritorni il Lucio di prima, sinceramente. Ma il Lucio di prima, la versione migliore è quando giocava con qualcuno che faceva un po' anche la sua parte, l'ho detto molte volte, tipo Samuel o nel Brasile quando c'era Juan che era a certi livelli, eccetera eccetera. A me Lucio è un giocatore che non fa, per cui non stravedo, però questione di così di gusti e di opinioni. C'è chi ci domanda via SMS: si può fare Berinelli a Chicago? Renato da Vittorio Veneto: non è che si può fare, è fatta per Berinelli a Chicago, di cui ogni giorno mi avete domandato notizie. Ieri l'avevamo detto, c'è la possibilità per Berinelli di mettere la maglia che fu di Michael Jordan. Questa possibilità è diventata nella notte realtà, dunque Marco Berinelli giocherà la prossima stagione con i Chicago Bulls per una cifra che è di, ve lo dico subito, 3,8 milioni fino al 2014. Se volete ne parliamo domani, vi va? Facciamo così. Adesso chiudiamo, Franco Piantanini in redazione, Matteo Comes in regia. Ciao a tutti, a domani alle 2.